Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, voglio porre alla sua attenzione un aspetto del nostro sistema sanitario che, a mio parere, crea molti disagi agli utenti, oltre che parecchie inefficienze. È esperienza comune dover fare lunghe code nello studio del medico di famiglia e code ancora più lunghe all'accettazione del pronto soccorso ospedaliero. Ciò è dovuto al fatto che il medico di famiglia, quando va bene, riceve 2 ore al giorno e spesso neppure tutti i giorni. La visita a casa dei pazienti è inoltre diventato un fatto molto occasionale e qualche volta si ottiene solo dopo notevoli insistenze. Vorrei anche segnalare il fatto che il medico di famiglia sia ridotto a dispensatore di ricette o a consigliere per visite specialistiche. Molto raramente esegue interventi diretti sul paziente, come piccole suturazioni, iniezioni, prelievi del sangue, eccetera. In questo modo tutto grava sulla struttura sanitaria ospedaliera e quindi sul pronto soccorso. Sento parecchi amici e colleghi che si vedono costretti a ricorrere al pronto soccorso anche per patologie molto lievi dei propri figli, o per infortuni domestici lievi, o per malori di poco conto, solo perché non possono avere la cultura sanitaria o la capacità di giudizio per attendere un paio di giorni prima di recarsi dal medico di famiglia. Si creano così affollamenti inutili al pronto soccorso, con file di attesa di ore per le persone con codice verde e con disagio di chi ha veramente bisogno. Mi chiedo per quale motivo il medico di famiglia, come tutti i professionisti, non possa tenere aperto l'ambulatorio tutto il giorno e tutti i giorni della settimana, uscendo solo per le urgenze e garantendo i piccoli interventi direttamente nel suo studio. Si eviterebbero molti disagi agli utenti e molte inefficienze del servizio. Ho chiesto conto a un dirigente dell'assessorato alla sanità della regione in cui risiedo. Mi è stato riferito che mentre le ASL dipendono dalla regione, i medici di famiglia dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sinergia tra loro è impossibile. Inoltre i medici di famiglia sono una categoria a parte, il cui livello di servizio non è giudicabile. Per evitare le code all'ambulatorio del medico di famiglia si potrebbe adottare il metodo già in uso in Francia, oltre che negli Stati Uniti. Il paziente non è vincolato a priori a un medico, ma si reca da un medico di famiglia di suo gradimento. Oggi in Italia ciò è teoricamente possibile, ma nei fatti ci si deve accontentare del medico libero, cioè di quello che ha meno pazienti in quel momento. Il paziente inoltre potrebbe pagare la visita, ad esempio 10 euro, e venire successivamente rimborsato, ad esempio 8 euro, dalla regione. In questo modo si eviterebbero i malati immaginari, che a sentire i medici di famiglia affollano i loro ambulatori. Verrebbe però decurtato anche lo stipendio dei medici immaginari, che non si fanno mai trovare o che sono impegnati solo 2 ore al giorno, pur percependo uno stipendio pieno. Raffaele. Scrivo questa mail per sfogarmi. Ce l'ho con gli italiani, soprattutto con quelli che non sono andati a votare. Dopo aver sentito parlare per oltre 2 anni di una legge elettorale brutta, nella quale noi cittadini siamo poco coinvolti, mi aspettavo di vedere un'affluenza di massa da parte della gente vera. Credevo che saremmo riusciti a mandare un messaggio chiaro alla classe politica. Noi italiani siamo più che mai svegli e vigili e meritiamo una legge elettorale più giusta, non una porcata. Ahimè. Tutto questo non è accaduto. Il referendum è stato ignorato, sia nello specifico che nella forma. Non abbiamo mandato alcun messaggio, anzi, uno lo abbiamo mandato. Fate quello che volete, tanto a noi va bene comunque. Sono deluso. Credevo di vivere in un paese più colto e più interessato. Invece vivo in mezzo a tanti addormentati nel bosco. Che rabbia. Giovanni. Se i quesiti del referendum fossero stati diversi, forse la gente avrebbe risposto in modo più partecipato. I quesiti sulla legge elettorale non erano stati studiati per modificare la legge in modo radicale. Questa legge elettorale non fa schifo per il premio di maggioranza, ma perché non permette di capire chi viene spedito a Roma a rappresentarci. Quindi, secondo me, la gente non è andata a votare perché i quesiti non cambiavano sostanzialmente il sistema. David. Essendo contrario alle province ma favorevole all'istituto referendario, ho rifiutato la scheda delle elezioni provinciali e ho votato solo per il referendum. Dato che i politici, di destra e di sinistra, contrari all'ultimo quesito referendario, cantano vittoria, dichiarando che il 77% degli italiani è con loro, vorrei sapere se mi posso dichiarare vincitore pure io. in quanto la partecipazione al voto per le province si è fermato al 45,86% degli aventi diritto, sbaragliando quindi i candidati di destra e sinistra, che si fermano circa al 20-30% sul totale dei votanti. Gianni. Un commento sull'esito di queste ultime consultazioni elettorali. Trovo sconvolgenti le dichiarazioni dell'onorevole Franceschini, che, quanto a stravolgimento della realtà, è davvero maestro. Qui in Toscana si è aperta una voragine nella fortezza, apparentemente inespugnabile, del centro-sinistra italiano. Prato, la seconda città della Toscana per numero di abitanti dopo Firenze, ne ha oltre 185.000. La città che rappresenta il cuore economico, industriale e artigianale della Toscana. La città che consente a Firenze di poter vivere ormai solo di turismo. Dopo 50 anni di governo di centrosinistra, ha deciso di voltare pagina ed eleggere un sindaco, non espressione di una lista civica, ma del PDL. A me pare che a questo elemento debba essere dato un risalto speciale, ancor più che alla vittoria annunciata del sindaco di Firenze, Renzi. La partita Renzi-Galli era una partita il cui risultato era già scritto sin dall'inizio. Il solo fatto di aver portato Renzi al ballottaggio è stata una vittoria per un concorrente di facciata come Galli. Il vero termometro politico dei risultati del PD è stato il comune di Prato. Allora, se questo è l'inizio del declino del centrodestra, mi pare di poter dire che abbia ragione Gasparri quando afferma che, a fronte di certe dichiarazioni di Franceschini, c'è bisogno della visita di un medico. Enea. Ritengo che la sinistra sarà sempre perdente con Berlusconi, perché da anni segue le stesse obsolete, prevedibili e scontate strategie politiche, mentre Berlusconi, politicamente, è sempre un passo avanti e sa prevedere e prevenire le mosse dell'avversario. Tra l'altro, la sinistra, per continuare ad attaccare Berlusconi, ha ignorato l'attività della Lega, che di fatto, agendo sul territorio, sta letteralmente facendo terra bruciata attorno alle roccaforti di sinistra. Vedi Prato. A proposito, nessuno ha sottolineato il successo della Lega a Lampedusa, dove è stato miracolosamente risolto il problema degli sbarchi dei clandestini. Possibile che la sinistra, che si vantava di rappresentare l'intelligenza politica italiana, da anni non riesca più a partorire una sola idea politicamente accettabile? Ho la sensazione che da quando è caduto il muro di Berlino sia anche caduta la fonte primaria di idee per i dirigenti di sinistra. Come dire, senza maestri che mi assegnavano i compiti per casa, non so studiare da solo. Mi pare che i dirigenti di sinistra, non sapendo più a quale santo rivolgersi, si siano ricordati dell'avviso di garanzia al G8 di Napoli e si siano detti: ha funzionato allora, rifacciamolo adesso. Ma veramente pensano che Berlusconi si faccia fregare due volte allo stesso modo? Mi meraviglierei molto se accadesse. E allora, cara nostalgica sinistra, un po' di seria autocritica e più brainstorming. Infine, spero che Marco Travaglio abbia ascoltato il giornalista francese che lunedì sera, sulla 7, durante la trasmissione condotta da Antonello Piroso, ha candidamente dichiarato che in Francia un giornalista televisivo che critica il presidente Sarkozy perde il posto. In Francia, mica in Iran. E il suo amico Santoro è sempre lì con la sua clac. Travaglio e Santoro non hanno capito che il loro atteggiamento da cabaret non fanno altro che cementare nelle loro idee chi non li apprezza. Pensate che rivoluzione se ignorassero Berlusconi e facessero proposte politiche serie per affrontare i veri problemi italiani. Claudio. Caro direttore, assistiamo ad uno spettacolo politico vergognoso e pericoloso per la democrazia. Un governo istituito con un largo consenso popolare e successivamente riconfermato rischia di cadere sotto un'indegna lista di continue illazioni diffuse in Italia e riprese dalla stampa estera. Questo è il risultato di un'opposizione incapace di ottenere il consenso popolare altrimenti. D'Alema parla del rischio che il Presidente del Consiglio possa essere ricattato in seguito a degli scandali. La verità è che i comunisti italiani, compromessi dagli atti di quelli che una volta erano compagni nei paesi del comunismo reale, hanno ceduto preventivamente al proprio ricatto, negando il proprio credo nell'apparenza politica e hanno aderito, almeno apparentemente, ai valori dei loro opponenti politici, tradendo gli ideali della propria base. Facendo così, hanno svuotato di contenuto la dialettica della democrazia italiana. Questa è la vera ragione del marasma politico italiano attuale. Tentare la caduta di un governo largamente sostenuto dagli elettori è un tentativo di eversione. Ricordando che il governo Berlusconi è all'inizio del suo mandato ed è stato appena riconfermato col voto popolare, l'affermazione di D'Alema che il Presidente del Consiglio è una persona anziana non disposta a lasciare facilmente il potere è un insulto alla democrazia e un'incitazione alla soppressione dell'esito elettorale. Se malauguratamente questo governo cadesse, che senso avrebbe per un cittadino tornare alle urne? Nicola. Quando scoppiò il caso Clinton, io mi atteggiai a uomo di mondo, sorridendo di tutto il fervore accusatorio degli americani. Adesso che una situazione simile capita a casa nostra, mi tocca abbozzare. Nella sostanza la cosa non mi sorprende, anzi quasi invidio la vitalità e le disponibilità economiche di questo signore. Ma un po' di discrezione, direi quasi circospezione, sarebbe stata d'obbligo. Diciamo che sui giornali preferirei leggere altre notizie. Capisco la rabbia del Presidente del Consiglio, ma da editore di successo, penso in cuor suo, sia il primo a sapere che notizie così vendibili da parte dei mass media non possano passare inosservate, al di là del colore politico di chi le pubblica. Gianluca da Asti. Ho saputo della conversione del decreto legge sul terremoto in Abruzzo e ho scoperto non solo che le seconde case non saranno destinatarie di aiuti o contributi, ma neanche le prime. Mi spiego. Per accedere agli aiuti è necessario che l'abitazione sia insieme prima casa, residenza, dimora abituale. Così i dipendenti pubblici come me, che hanno l'obbligo di risiedere o quantomeno di dimorare nel luogo ove lavorano, nel mio caso Roma, non avranno diritto ad alcun aiuto. Però l'affitto a Roma devono continuare a pagarlo. Un mio amico, in vista del matrimonio fissato per i primi di luglio, aveva comprato a marzo la sua prima casa, ma non ha fatto in tempo a portarci la residenza, ci vogliono 2 mesi, e ora si troverà senza un futuro. Ma era così difficile scrivere prima casa e basta? È forse troppo? Oppure sono io che ho capito male? Stefania. Sono un giovane studente al Politecnico. La mia opinione riguardo alla proposta di mettere dei distributori di preservativi nelle scuole è che tutta la polemica che si sta montando sia solo una grossa ipocrisia, legata forse ancora all'ideologia del sesso visto come una cosa sporca e che deve essere repressa per questo. Come se poi, una volta installata una macchinetta distributrice, i ragazzi dovessero fare necessariamente sesso. D'altronde, non dimentichiamo che a favore della tesi anticondom c'è pure il pontefice, che, come sappiamo, ha un peso politico non indifferente. Ma le alternative quali sono? Il disconoscimento di situazioni che esistono? Quali sono le alternative proposte? A quanto pare l'astinenza, almeno a detta di qualcuno. La realtà è che il pragmatismo non è apprezzato in Italia e piuttosto che parlare dei problemi che esistono, come ad esempio il dilagare di malattie veneree, è meglio fare finta che non esistano o nascondersi dicendo che non si tratta di un problema primario, perché in questa maniera nulla diventa primario. Nicolò. Egregio direttore, si discute giustamente sugli uomini migliori da convocare per la nazionale. Calciatori forti possono vincere con qualsiasi modulo e schema di gioco, e anche senza schema. I grandi campioni creano per vocazione. Ma difficilmente viene affrontato il nodo cruciale della qualità essenziale del calcio italiano. Devo dire che il calcio italiano non mi piace anche quando vinciamo. Il calciatore di una squadra inglese tende continuamente a smarcarsi e tutta l'azione della squadra è finalizzata a smarcare un uomo che calcerà verso la porta. La geometria della squadra è continuamente variabile. Le squadre italiane sono statiche e schierate. L'azione più frequente è un lancio lungo verso un attaccante, per lo più con le spalle girate verso la porta, attorniato da un nugolo di avversari. La prodezza dell'attaccante è molto improbabile. Anche i cross sono indistintamente indirizzati in area, dove gli attaccanti dovranno vincere il duello con l'avversario, ma rare volte sono smarcati. A un'azione avversaria non si risponde imbastendo una nuova azione, ma con il solito, si fa per dire, lancio lungo, cioè una palla a casaccio preda degli avversari, che ripropongono un continuo assedio. In poche parole, non si corre senza palla. Quando un calciatore italiano è in possesso di palla, lo spettatore intuisce quello che farà, tanto sono esigui e ripetitivi gli schemi. Il gioco è prevedibile e noioso. Siamo i più furbi. 2 passaggi e subito in porta. Ma il risultato è che non sappiamo tessere un'azione fatta almeno di 3 passaggi e che non si formano i talenti in grado di saltare con fantasia l'avversario. Si dirà che il calcio italiano è fatto così. Ma se è così semplice insegnare calcio, mi propongo come mister. 30.000 euro all'anno, vitto e alloggio. Con cordialità, Leopoldo. Ci sono due parole, family e day, che non ho visto citate sui media ed è lì, forse, la chiave di tutto. A mio avviso, quello che è stato definito l'utilizzatore finale è l'esponente politico che, vuoi o non vuoi, ha tradito il milione di persone che hanno convintamente partecipato al Family Day del 2007, nonché quelle che, non potendo partecipare di persona, comunque si sentivano partecipi dell'evento. Ricordiamoci che dietro alla sua partecipazione all'evento, persino in contraddizione con i promotori, vi era il tentativo di spaccare il centro-sinistra. I temi di quell'evento erano no all'aborto, no ai Dico, sì alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, no alla contraccezione. Mi astengo dalla tentazione di speculare su queste ultime due voci. Roberto. Caro direttore, ha notato con quale rapidità è sparita dalle intenzioni dei nostri rappresentanti la proposta di dimezzare il numero dei parlamentari? Non se ne parla più, forse perché ormai le elezioni sono finite, ma forse penso male. Perché Radio 24 non ci ricorda ogni giorno la cosa, con un messaggio tipo 30 giorni dalla proposta di Berlusconi per ridurre il numero dei parlamentari, 31 giorni, eccetera, eccetera, fino a che accade qualcosa? Marcello. Caro Marcello, grazie per la sua proposta, ma ho il timore che sia molto ambizioso sperare che si possa arrivare in fretta a una riforma istituzionale importante e condivisa, come quella sulla struttura e i poteri del Parlamento. Certo, sarebbe un chiaro segnale di serietà politica se il Parlamento decidesse di autoridursi costi e privilegi connessi. Sarebbe un segnale di partecipazione alle difficoltà del Paese se i costi delle strutture pubbliche venissero limitati all'essenziale. Purtroppo la classe politica appare occupata in altri problemi e il necessario dialogo tra maggioranza e opposizione è sempre più uno scontro di basso profilo e di accuse reciproche. Eppure, in teoria, sulla riduzione del numero dei parlamentari si sono dichiarati in un modo o nell'altro tutti sostanzialmente d'accordo. Ma dato che il problema va visto nell'ottica più generale della riforma dello Stato, vale l'eterna logica del Gattopardo, parlarne tanto per non cambiare nulla. A meno di non sperare in un sussulto di dignità di una classe politica che tuttavia sembra aver perso di vista i veri problemi del Paese. Questa era una lettera selezionata tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.